Martedì 1 novembre. I titoli sono tutti declinati dei principali quotidiani sulla situazione finanziaria dell'Italia davvero a rischio. Tassi BTP al 6,1%, crolla la borsa, così apre il Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera, titoli italiani sotto attacco. Per Repubblica, fuga dai BTP italiani, borse a picco. Stesso titolo per La Stampa, fuga dai BTP, borse a picco. Il Fatto Quotidiano, si inventano il terrorismo per coprire la bancarotta. Per Il Messaggero, titoli di Stato sotto attacco. Insomma, vedete che i titoli sono abbastanza simili. Poi su Il Giornale invece la politica. Casini scarica la sinistra, mentre Libero remano contro. Il PD è anti-italiano. L'Unità, che aspettano ancora? Allarme Italia, lunedì nero sui mercati, Milano perde il 3,82%. Mentre il dramma Cassano è sulla prima pagina del Giorno, il quotidiano nazionale, si parla di un lieve ictus ischemico per l'attaccante del Milan e della Nazionale, forse carriera finita. Italia in trincea, questo è il titolo di Avvenire, mentre il Manifesto si dedica sulla decisione dell'UNESCO di accogliere la Palestina come Stato patrimonio umano, questo il titolo del Manifesto. Allora, prima di tuffarci dopo la pubblicità sulla situazione economica dell'Italia, le borse che crollano, il G20 alla vigilia del G20, dunque alle porte, Berlusconi che prova magari a trovare un colpo d'ala, qualcuno scrive sui giornali, due notizie di cronaca. La prima, beh, ricorda drammaticamente il film, uno dei film con protagonista Charles Bronson, no? Avete presente, quelli del giustiziere. Solo che questo non è un film, ma è tutta tragica realtà. Spara per vendicare la figlia morta, così a pagina 17 del Corriere della Sera, un'intera pagina, ma anche sulla Stampa, pagina 21. Vendica la figlia morta di overdose, prende il fucile e uccide il pusher. In realtà, tra l'altro, il titolo della Stampa in questo caso non è azzeccato, perché questo genitore di una ragazza di Brescia, Francesca Manca, morta e trovata morta a 28 anni per overdose, ha preso il fucile e è andato vicino a un campo nomadi dove dice: volevo far qualcosa di eclatante, volevo che lì la smettessero di spacciare. Ha preso il fucile, ha sparato, ha ucciso una persona che non c'entrava nulla. Un romeno di 19 anni che era lì per caso a trovare un parente, voleva punire lo spacciatore ma ha ucciso appunto un romeno di 19 anni al campo nomadi. Ero lì seduto davanti al caminetto di casa, distrutto dalla morte di mia figlia, uccisa dalla droga, e così ha preso il fucile. Volevo fare qualcosa di eclatante, volevo che quelli del campo nomadi la smettessero di spacciare, e così si è travestito da giustiziere, ha sbagliato bersaglio, ha finito per uccidere un ragazzo rumeno che non c'entra nulla col suo dramma familiare. Così inizia l'articolo di Claudio Del Frate sul Corriere della Sera. Davvero una storia incredibile, inverosimile, eppure tutta vera, di quest'uomo che, distrutto dalla morte della figlia, già la seguì in passato, capì che andava a drogarsi, poi quando ha capito che si riforniva appunto presso il campo nomadi, e quando è stata trovata morta la figlia, ecco la vendetta personale. Beh, davvero una storia incredibile. Rimango sulla Stampa per raccontare un'altra storia incredibile, ma tipicamente italiana, non è la prima volta. Una ladra da Guinness, presa a rubare 152 volte. 152 volte. È una 29enne. E giustamente vengono date le iniziali da Maria Corbi, CN, perché in realtà il trucco è questo: ogni volta che viene fermata da delle generalità diverse, e 152esima volta è stata fermata ieri. Una carriera iniziata da bambina e continuata ora. È una ragazza di 29 anni, l'hanno arrestata. Ha fornito 50 nomi diversi, una fregoli del furto, capace di evitare le maglie della giustizia, inventandosi ogni volta una vita diversa. La sua, invece, quella vera, è quella di essere nata in una famiglia rom e vive nel campo nomadi di Via di Salone a Roma. Ebbene, 152 volte. Ovviamente tutti si chiedono come fanno a non metterla in carcere, anche perché adesso ha 29 anni. E la verità è questa, che incredibilmente non è così facile, perché la storia della donna, delle troppe identità, non è certo una novità. Quest'estate, appunto, a Lecce è stata fermata un'altra rom di etnia serba, 26 anni, che ha fatto impazzire i computer della polizia, perché la sua foto corrispondeva a 70 identità diverse. Beh, certo, situazioni non facili, ma il titolo fa molto scalpore. Una ladra da Guinness, presa a rubare a Roma per la 152esima volta, ha dato alla polizia finora 50 nomi diversi. 24 mattino. Eccoci allora alle 7:33 minuti, proseguiamo nella lettura dei giornali e, come detto, i mercati italiani sono stati puniti duramente ieri con il Piazza Affari che perde il 3,82%, lo spread è salito a 410 punti, il BTP al 6,1%. Questi sono i dati messi in evidenza in prima pagina del Sole 24 Ore oggi. The game is over, così inizia a pagina 3 l'articolo Laura Serafini. Per parlare dei livelli record raggiunti dai rendimenti dei BTP sulle scadenze brevi a 2, 3, 5 anni, sono un fortissimo segnale di allarme sul fatto che l'Italia è arrivata ormai a un passo da non poter più salvare se stessa, mettendo a rischio non solo la sua economia, ma assicurando il contagio anche tutto il resto dell'area euro. Dunque volano i tassi, lo spread sale a quota 410. Appunto, i tassi dei BTP al 6,1%. Volete altri dati che sicuramente non sono incoraggianti dalla giornata di ieri? Beh, Emanuele Scarci ne parla a pagina 8. L'inflazione è salita ai massimi dal 2008 e dunque si prepara un autunno amaro per l'Italia. Aumentano anche i disoccupati, calano gli occupati, mentre la febbre dei prezzi spinge l'inflazione del consumo al massimo dal 2008, più 3,4%. E questo dato della disoccupazione, tra l'altro, è messo in evidenza anche dal Corriere della Sera, pagina 4. Di fatto, un giovane su tre è senza lavoro, la disoccupazione all'8,3%, tasso di disoccupazione giovanile che sale al 29,3%, livello record dal 2004, quando sono iniziate le serie storiche dell'inflazione, appunto al 3,4%, abbiamo detto. E poi, giusto per completare l'ondata di ottimismo dai dati, ma d'altronde i dati sono questi, non è che se ne possono raccontare di altri, la gelata dall'OCSE, racconta la stampa, pagina 4, l'economia in Unione Europea, cosa si attende per l'Eurozona il prossimo anno? Non ci sono dubbi, un inesorabile, marcato rallentamento. Questo è lo scenario dipinto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nel rapporto pubblicato alla vigilia del vertice del G20 a Cannes. Ecco appunto il vertice del G20 a Cannes. Intanto, nella prima pagina del Sole 24 Ore, il direttore Roberto Napoletano, dal titolo Dipende da noi, questo è l'editoriale, ribadisce quello che qualche giorno fa già il Sole aveva chiesto. La domanda da porsi oggi è una sola: siamo capaci davvero di fare sia quello che continuava ad annunciare nella lettera, sia quello che nella lettera non c'è ma va fatto? Pensioni sanitarie, distribuzione dei pesi fiscali, interventi diretti a ridurre in modo significativo il debito pubblico? Questo giornale, scrive Napoletano, in tempi non sospetti ha chiesto prima al ministro dell'economia, poi al presidente del Consiglio di valutare un passo indietro, ha invocato successivamente la responsabilità etica che viene prima di quella politica. Ci sono uomini e forze politiche nel governo, nella maggioranza, non sono in grado di accogliere questo appello? Chi ha a cuore il futuro del paese deve essere in grado di assicurare l'obbligo etico dell'azione. A nessuno si potrebbe perdonare di avere messo in pericolo il lavoro e il risparmio degli italiani. Così torna a chiedere il direttore del Sole 24 Ore oggi nel suo editoriale. Tra l'altro, la reazione della politica, la reazione di Berlusconi, che sta preparando appunto il G20 dopodomani a Cannes, tra l'altro in quella terra un po' ostile, francese, no? I rapporti con Sarkozy, li sapete, negli ultimi tempi. Ebbene, Berlusconi, che è ad Arcore, ma si tiene in contatto ovviamente con tutti i ministri, secondo il Corriere della Sera, Paola Di Caro, a pagina 6, dice: queste fibrillazioni dei mercati non dipendono da me, non dipendono dalla mia presenza o da quello che sta facendo il governo, che ha imboccato la via giusta. La speculazione ha puntato l'Italia e la risposta che va data deve essere globale. Noi non possiamo fare molto di più di quello che stiamo facendo. Questa sarebbe la posizione in questo retroscena di politica del premier Berlusconi. Mentre nella stessa pagina Mario Sensini intervista al ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, che dice: se serve, sì anche al condono fiscale, si possono recuperare risorse con formule come il concordato, il condono fiscale, ma si possono fare anche tante cose senza spendere. Insomma, un Romani che rilancia questa idea del condono fiscale, tra l'altro annuncia del famoso decreto sviluppo, dice: intanto togliamo la parola decreto. Sicuramente però approveremo una lista di 100 cose a costo zero per rilanciare la crescita dell'economia e credo che già questa settimana faremo uscire qualcosa. Questo dice il ministro Romani. Sta di fatto che, secondo vari giornali, per questo G20 Berlusconi avrebbe in mente un qualcosa per stupire, un qualcosa. Sa benissimo Berlusconi che l'Italia sarà sotto una grande attenzione, qualcuno dice anche sotto i riflettori e sotto grandi critiche, la possibilità di grandi critiche, e dunque sia la stampa sia il Fatto Quotidiano sono allineati su questa linea. Berlusconi sta cercando di partorire qualcosa che spiazzi un po' tutti i suoi interlocutori, sapendo bene che appunto tutti sono pronti a puntare il dito contro l'Italia. Allora, Ugo Magri sulla Stampa, pagina 6, sotto l'articolo dal titolo Berlusconi cerca un colpo d'ala da portare al G20, la definisce Ugo Magri quella che a Roma chiamerebbero una mandracata, così da tranquillizzare il paese dove cresce la paura e nessuno mobilita le coscienze. E per questo Berlusconi chiede suggerimenti qua e là, interpellando personaggi di livello, finanzieri, banchieri. Certi ministri che gli danno una mano sono sparsi purtroppo all'estero, Romani in India, Brunetta a Shanghai, Fitto a Londra. L'unico su piazza, eppure parecchio attivo, si chiama Tremonti. E insomma, diciamo che Berlusconi starebbe cercando un colpo d'ala. Certo, la stampa però non dice quale colpo d'ala, lo dice il Fatto Quotidiano. Questo secondo il Fatto Quotidiano, a pagina 3, Sara Nicoli. Il G20 lo accuserà e Berlusconi vuole giocarsi tutto. Ecco qui cosa scrive il Fatto Quotidiano: il cavaliere non si aspetta diktat dal G20, ma una moral suasion piuttosto intensa, alla quale lui si sta preparando a rispondere con la consueta fermezza, soprattutto a livello mediatico. Cosa potrebbe annunciare? Una delle ipotesi che circola al Tesoro potrebbe dire Berlusconi: alziamo subito l'IVA di un altro punto, intervenendo sull'aliquota del 10%, così da sciogliere le perplessità sulla mancanza di 20 dei 60 miliardi della manovra estiva. Si vedrà. Insomma, questa dell'ipotesi dell'IVA per tappare i buchi della manovra, scrive il Fatto Quotidiano, oppure anticipare le misure sul lavoro tanto annunciate. Certo, la reazione politica è ben diversa a quella di Umberto Bossi, leader della Lega, che dopo queste cifre molto negative che ho letto in apertura che dai mercati arrivano, ha detto in maniera molto chiara: io ho i miei dubbi che il paese possa durare. Ieri era a Pecorara, in provincia di Piacenza, la festa della zucca, vabbè, una di quelle kermesse leghiste dove tra l'altro c'era presente anche il ministro Tremonti e dove Bossi parla a ruota libera. Per esempio: prima o poi prenderemo per il collo i giornalisti e prima o poi vi spacchiamo la faccia, ma non stasera. Quindi tranquillizzati, ma non troppo, i giornalisti che erano lì al seguito. E poi questa frase, no, che una delle solite frasi di Bossi: non siamo ancora salvi, in realtà il nord e il sud sono due paesi uniti da quei disgraziati dei savoiardi. Eppure milioni di persone che lavorano sulle spese dei laboratori del nord, ditemi voi se è un paese che può durare. Io ho i miei dubbi. Nel mio giardino, a scanso di equivoci, ho una bella bandiera della Padania. Questo è Umberto Bossi, ieri in questa kermesse della Lega. Mentre dall'opposizione si torna a rilanciare l'idea del governo di emergenza, deve nascere subito, così Enrico Letta, numero 2 del PD, in un'intervista all'Unità a pagina 8 e 9, non c'è più tempo. Anche se in realtà il Partito Democratico le prese più con una sorta di grana interna, diciamo così, vale a dire il terremoto o il Big Bang, per usare la sua espressione, di Matteo Renzi, no? Matteo Renzi ieri, cioè domenica, ha chiuso la convention a Leopolda e ha un po' terremotato il Partito Democratico. Su tutti i giornali c'è questo dibattito all'interno del partito: democratici divisi su Renzi, così titola pagina 18 Il Sole 24 Ore. Dai bersaniani è un muro contro il sindaco, addirittura per il secolo XIX, secondo indiscrezioni, Renzi avrebbe già in qualche modo deciso di uscire dal partito. Insomma, uno scenario abbastanza clamoroso, tanto che si fa notare che era presente, tra gli altri, alla convention nel fine settimana anche Andrea Romano, che è un uomo molto vicino a Luca di Montezemolo. E dunque c'è questo scenario, no? Che Renzi possa lasciare addirittura il Partito Democratico per buttarsi in un'avventura politica un po' più solitaria, magari cercando la premiership attraverso altri lidi politici. C'è questo paradosso per cui ieri Giuliano Ferrara, oggi Vittorio Feltri sul Giornale, cioè Renzi è difeso più da destra. Non vogliono Renzi perché è il più bravo, così per esempio il titolo dell'editoriale di Vittorio Feltri oggi sul Giornale, mentre da sinistra, e vedete per esempio il responsabile economico del Partito Democratico Stefano Fassina, che viene intervistato da Il Fatto Quotidiano, il sindaco di Firenze ha assunto in pieno il berlusconismo. Perché ce l'abbiamo tanto con Renzi? Questa è la domanda. Ha una cultura politica molto personalistica, plebiscitaria, mentre un partito deve essere una squadra, un collettivo. Ha assunto senza se e senza ma il paradigma berlusconiano. Vi fa paura, chiede Vanda Marra del Fatto. Francamente credo che alla Leopolda ci fossero tante energie positive che spero siano protagoniste del PD, ma no, non ci fa paura. Fassina l'ha definito anche figlio di papà, portaborse miracolato. Questa è la definizione che Fassina ha dato di Renzi. Ora dice: è una reazione agli attacchi. Volevo solo ricordare che chi non ha mai avuto bisogno di spedire un curriculum vitae, di fare un colloquio, di aspettare con ansia la scadenza di un contratto precario, non mi pare abbia molti titoli per sparare. Insomma, diciamo che all'interno del Partito Democratico c'è questa tensione. Qualche tensione, per la verità, anche all'interno della maggioranza. Sono un po' finiti sotto traccia davanti a tutti i numeri dei mercati finanziari. Ma in realtà pare che covi ancora sotto le ceneri del dissenso qualcosa all'interno del Popolo della Libertà. Carmelo Lopapa racconta, per esempio, a pagina 11 del dissenso di quelli che ora vengono definiti gli indisponibili, no? Erano i peones, i malpancisti, i frondisti. Ora pare siano chiamati gli indisponibili. Una serie di parlamentari, PDLini o diciamo vicini alla maggioranza che ne sono usciti da poco. A capo di tutti c'è l'ex responsabile Sardelli, che pare addirittura si siano dati un appuntamento per domani con un summit dal luogo e dall'ora top secret. Accidenti, insomma, un qualcosa di serio. E dicono ci sono 10 parlamentari pronti a lasciare la maggioranza. Vengono citati la PDLina calabrese D'Ippolito, che contattata dice no comment. L'ex coordinatore forzista Roberto Antonione, che ha chiesto a Berlusconi un passo indietro. Fabio Gava, Giustina Destro, Luciano Sardelli, Antonio Milo, che ha sottoscritto un documento con Sardelli. Insomma, Nucara, che dice non so se voto più la fiducia, ma poi la vota sempre all'ultimo momento. Insomma, sta di fatto che c'è questo vertice top secret degli indisponibili che minacciano. 10 sono pronti a lasciare la maggioranza e a far cadere il governo. Allora, alle 7:48 minuti, intanto il ministro del welfare Sacconi ha rilanciato quella che è l'allarme terrorismo. Terrorismo Sacconi rilancia, ci sono nuclei organizzati, così sul Corriere della Sera, e tra l'altro trova la sponda anche del leader della UIL Angeletti. Nuclei clandestini, terrorismo Sacconi insiste, così titola anche Repubblica. Noi, come detto, abbiamo titolato la puntata di oggi "Noi non ci stiamo", racconteremo tre storie, la storia di un imprenditore che si è denudato completamente, ha comprato, poi ovviamente con le mani si è coperto lì, e ha comprato una pagina del Corriere della Sera per dire ecco, rimaniamo tutti in mutande. Avremo anche ospite, invece, alle 8:30, il procuratore di Palermo Antonio Ingroia, che è nel centro di polemiche dopo che è andato al convegno, un convegno di partito, al Partito dei Comunisti Italiani, e ha detto questa frase: io sono un partigiano della Costituzione, tra chi la offende, tra chi la violenta e chi non lo fa, io so da che parte stare. Non è tanto questa frase, cioè essere partigiano della Costituzione per un magistrato, ma come per qualsiasi cittadino italiano dovrebbe essere una cosa normale. È il fatto di essere andato a un convegno di partito che fa discutere. Sta di fatto che il giornale Libero continuano, insistono, i compagni di toga di Ingroia che fanno politica anti-CAV, così il giornale, oppure Libero con Filippo Facci, oggi è molto duro, lo definisce l'imbarazzante Ingroia, sempre sottovalutato perché sta in Sicilia e perché galleggia in quei porti delle nebbie che sono da sempre le procure isolane. Sedicente erede di Borsellino, ma si ricorda di lui al limite qualche episodio, ma sfugge sempre il quadro d'insieme, si citano al massimo un paio d'inchiesta, però alla fine non è ancora chiaro perché Ingroia esista, nel senso che risultati abbia ottenuto, per quale ragione un cordone di gazzettieri penda dai suoi faldoni. L'ultimo capitolo lo liquidiamo subito. Ingroia è stato oggettivamente imbarazzante, inescusabile, è andato a un congresso di partito che peraltro è un partito comunista, una sede prudente, e ha detto di non essere imparziale, di essere partigiano, in sostanza di essere contro chi vorrebbe cambiare la Costituzione, e cioè contro questa maggioranza, contro Berlusconi. Ieri poi si è reso conto di averla sparata più grossa del solito e si è trincerato dietro la solita provocazione che risolve tutto. In realtà il magistrato, tra l'altro, manda una lettera pubblicata dal Corriere della Sera, pagina 19, e si chiede: è consentito a un magistrato, famoso o no, poco importa, esprimere la propria opinione su tematiche legate alla sua professione come Costituzione, legalità e antimafia? Gli è consentito interloquire con la politica su questi temi, poco importa in quale contesto, purché egli non dimostri collateralismo con alcun partito? Io credo di sì, si risponde Ingroia a queste domande. E poi dice: sono pronto a farlo anche in manifestazioni organizzate, perché no, dal Popolo della Libertà. Non conta dove si dicono le cose, ma quel che si dice. Insomma, ne parleremo con lui alle 8:30. Intanto la notizia è questa, cari cittadini italiani. La benzina da oggi costa un centesimo in più. Costa un centesimo in più e io dico: va bene. Costa un centesimo in più perché è stato deciso di aumentare di un centesimo da oggi fino all'ultimo giorno dell'anno la benzina e il gasolio, anche per finanziare i lavori e gli aiuti per la tragedia che è successa alle Cinque Terre in Liguria e in parte della Toscana. La benzina più cara per aiutare gli alluvionati, e io ripeto, va bene. Dopodiché però, come si chiede Libero in prima pagina, per pagare i danni ci alzano la benzina, sarà anche qualunquismo, ma Giuliano Zulin si chiede: va bene, il principio è sacrosanto, il principio è nobile, ma perché bisogna sempre far pagare gli italiani, gli automobilisti, perché la casta non ha ancora tagliato di un euro le sue spese folli? La Camera dei Deputati costa 1 miliardo circa all'anno. È mai possibile che non si riesca a risparmiare 65 milioni di euro, cioè la cifra che serve per gli aiuti tra commessi, rimborsi, uffici, auto blu, per dare una mano alle decine di migliaia di alluvionati liguri e toscani? Il Ministero della Difesa potrebbe cedere, tanto per cominciare, quelle 19 Maserati comprate chissà che e devolvere il ricavo delle famiglie che hanno perso casa e lavoro, no? Faccio anch'io questa domanda. Insomma, quindi siamo tutti contenti di aiutare le persone, i nostri concittadini, i nostri connazionali che sono in difficoltà in questo momento. Ci rimangono alcune domande. Voglio chiudere con che cosa? Sappiate, lasciamo stare il dramma Cassano, ma insomma lo vedete su tutti i giornali, è un lieve ictus, pare che la sua carriera sia a rischio, ma voglio chiudere con un sorriso, se volete, il vizio medievale del principe Carlo. Sappiate che in Inghilterra c'è una norma dal 1337, e gli inglesi dicono, e non abbiamo intenzione neanche di abolirla, per carità, che concede al duca di Cornovaglia, vale a dire Carlo, d'Inghilterra in questo caso, di porre il veto sulle leggi che confliggono sul regno sul ducato, a dire la verità, su cui lui ha voce in capitolo. E lui lo ha utilizzato 12 volte. Nessuno è in grado di sapere su quali leggi, perché il carteggio tra l'erede al trono e i ministeri è assolutamente privato, ma una norma del 1337 consente a Carlo di usare, per proteggere i propri interessi, il veto sulle leggi della Gran Bretagna. Eccolo qui, il vizio medievale del principe Carlo, il veto sulle leggi. Anche sul giornale Londra, infuriata col principe, mette bocca sulle leggi. Ma c'è una legge che glielo consente, è del 1337. Viva l'Inghilterra, giornale radio.